Spesso ciò che snerva chi predica la parola di Dio sono gli scarsi risultati. Da un lato tutto era stato predetto da Gesù nella parabola del seminatore. Del seme seminato dall'agricoltore solo un quarto andò a buon fine e portò frutto, mentre più della metà non portò frutto. È un risultato veramente scoraggiante, al punto da indurre chi semina a non seminare, ma poiché l'ordine di Dio in Gesù Cristo è perentorio, chi ha posto fede in Cristo non può esimersi dall'annunciare il Vangelo. Gli scarsi risultati di una predicazione anche efficace vengono pure nell'ambito della Chiesa, dove i credenti, pur conoscendo il loro dovere, non lo compiono. L'Apostolo Paolo così si espresse: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro, 2 Corinzi 5.1-4.15. Secondo Paolo, coloro che sono stati riscattati dalla perdizione eterna mediante il sacrificio d'amore di Gesù Cristo, dovrebbero inevitabilmente essere spinti a vivere per Lui. Ma nonostante questa inevitabile conseguenza, coloro che vivono per Cristo, coloro sanno dare a Lui la precedenza in ogni cosa, sono pochi. Molto pochi. Altri, impegnati nell'opera di Dio, vivono convinti di dare a Cristo il tempo e lo spazio necessario, mentre stanno dando solo dei ritagli di tempo o lasciando a Cristo solo alcuni settori della loro vita. Come sbloccare questa situazione? Com'è possibile aiutare le persone ad uscire fuori da una vita cristiana semi-addormentata o far capire che non stanno dando ciò che Gesù richiede? Una cosa è dire che hanno bisogno di curarsi, altra è convincere le persone che si devono curare. In effetti, che i credenti debbano consacrarsi a Dio e alla sua opera non è una novità. Perché dopo 5, 10, 20, 30 anni che si ascolta la parola di Dio di esortazione alla consacrazione, di appelli di occuparsi delle cose celesti e non solo di quelle terrene, ce ne sono stati. Eppure, sembra che il vento impetuoso del Vangelo non muova una foglia. Vi sono persone che hanno ascoltato per decenni la parola di Dio, ma si trovano nella stessa situazione di quando hanno posto fede in Cristo. Non è possibile ignorare un dato di fatto, e occorre trovare un metodo che convinca i più recidivi. Un metodo molto efficace per indurre le persone a comprendere un insegnamento o accettare un ordine è il metodo del paragone. Non è certamente una novità, perché benché fosse figlio di Dio e avrebbe potuto fare appello alla sua autorità, Gesù Cristo ha parlato spesso in parabole. E una parabola, si sa, è un racconto tratto dalla vita ordinaria per rivelare verità profonde di Dio. La parabola del seminatore, per esempio, è un paragone per far comprendere quanti pochi avrebbero accettato il Vangelo e che scarsi risultati sarebbero stati ottenuti da tale semina. Così, per far capire quanto il suo popolo lo onorasse, l'Eterno fece il paragone con le autorità civili. Voi offrite sul mio altare cibi contaminati, eppure dite: in che cosa ti abbiamo contaminato? Quando dite: la mensa dell'Eterno è spregevole. Quando offrite in sacrificio un animale cieco, non è male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è male? Presentano dunque al tuo governatore. Sarà soddisfatto di te? Ti accetterà con favore, dice l'Eterno degli eserciti, Malachia 1.78. Il discorso dell'Eterno è disarmante. Se offrire un animale difettoso ad un'autorità civile è sconveniente o disonorevole, a me, che sono il re dei re, perché offrite degli animali difettosi? E solo con il paragone che certi comportamenti deplorevoli vengono messi in evidenza. Spesso una coscienza abituata a compiere il male non si rende conto di ciò che sta compiendo, e per questo molto probabilmente Gesù ha esposto la regola d'oro del comportamento con il prossimo in una sola proposizione che consiste in un paragone. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro, Luca 6,31. Gesù aveva dato delle regole di come comportarsi con il prossimo, ma le regole possono anche variare da cultura e cultura, così, perché non vi sia possibilità di errore di interpretazione. ha riassunto il tutto in un comportamento di paragone: le cose che vuoi che il prossimo ti faccia, falle tu a loro. Ti piace che ti dicano delle bugie, che ti si tratta male? Ti piace che gli altri usino violenza nei tuoi confronti? No, bene. Allora fai quello che desideri che gli altri ti facciano. Vi è un altro metodo di insegnamento efficace più di questo? Se non riesci a comprendere il male che fai perché ormai ti sei assuefatto ad esso, prova a fare un paragone. Se ti piacerebbe che qualcuno ti parlasse come tu parli, o ti piacerebbe ricevere ciò che dai. E, stato detto, che gli errori sono come i fari delle automobili, ci abbagliano solo quelli degli altri. Perciò è necessario uscire fuori dal mondo egocentrico. Se le esortazioni non raggiungono il segno, se credi di essere abbastanza consacrato a Cristo, prova a confrontarti con altri. Una signora di una certa età piangeva per la morte di suo marito dopo avermi detto che aveva avuto una meravigliosa convivenza per 45 anni. Comprendevo che era un pianto che cercava commiserazione, e così incurante di questa sua richiesta le feci un paragone dicendo: piuttosto che piangere, perché non ringrazia Dio che ha vissuto bene con suo marito per 45 anni? Pensi a quelli che hanno avuto un matrimonio fallito o vivono un dramma all'interno del loro matrimonio. Smise di piangere e mi ringraziò per questa nuova prospettiva alla quale non aveva mia pensato. Un paragone può fare più di un lungo discorso, come quell'uomo che si lamentava di non aver le scarpe ai piedi. Quando vide un uomo senza piedi, smise di lamentarsi. L'Apostolo Paolo, per far comprendere ai credenti di Corinto la necessità di una vera consacrazione, prese come paragone i giochi olimpici. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo, punto. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così. Non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. 1 Corinzi 9.24-27. Se delle persone avevano dedicato la loro vita ad ottenere un premio che dovranno lasciare, se si sono imposte un regime alimentare di vita pur di ottenere un risultato che non può durare, perché non metterci lo stesso zelo, lo stesso impegno nelle cose che riguardano il regno di Dio? Però il credente saggio non deve disprezzare coloro che si occupano con la massima serietà delle cose di questa vita, ma nel suo cuore deve far salire una preghiera di paragone perché possa avere lo stesso impegno e zelo per le cose eterne. Quando Gesù raccontò la parabola del giudice iniquo, cioè di quel giudice che non voleva fare giustizia ad una vedova ma dovette esaudirla per togliersela dai piedi, ordinò ai suoi discepoli di tener presente l'atteggiamento del giudice, perché il comportamento di Dio è simile a quello del giudice iniquo, e cioè esaudirà molto presto il grido di giustizia di coloro che hanno posto fede in lui. Ancora una volta il cristianesimo si presenta come una fede realistica che trae le sue radici dalla realtà della vita. Il cristianesimo non è pura filosofia astratta, ma la realtà delle cose. Proprio perché il paragone ha un'efficacia unica, proprio perché c'è bisogno di essere coscienti di ciò che abbiamo, proprio perché occorrono uomini e donne consacrati a Dio, propongo lo stralcio di una relazione fatta da un credente in un lebbrosario. Dopo aver considerato questo luogo fuori dal mondo, cintato da filo spinato, un luogo dove ogni legame personale con la propria famiglia e ogni relazione con il mondo esterno erano definitivamente rotti, quest'uomo ebbe un primo contatto a distanza con coloro che vivevano nel lebbrosario. Il primo impatto fu traumatico. Vedeva solo corpi martoriati, senza mani, senza braccia, con volti sfigurati, mezzi decurtati dalla lebbra. In questo immenso dolore sentiva cantare degli inni a Dio. Chiese ad un credente colpito dalla lebbra come era lo stato spirituale del campo, se ricevevano notizie da altri credenti, e la risposta è stata questa: In fondo sarebbe meglio che noi non ricevessimo più lettere da voi, poiché le vostre lettere non ci portano che tristezza. E da esse che abbiamo saputo che alcuni di voi sonnecchiano mentre la parola è annunciata, e che molti trascurano il radunamento. Diteci dunque voi che siete liberi e in buona salute, come potete essere così tiepidi e addormentati nell'attesa del vostro Salvatore? Da quando abbiamo udito questo, abbiamo ogni settimana un'ora di preghiera per voi. Anche voi siete gravemente malati e spiritualmente parlando più lebbrosi di noi, e per questo che preghiamo per voi. Di fronte a una simile testimonianza, non ci si può sentire che profondamente umiliati. È proprio vero che le cose si apprezzano quando vengono a mancare, e purtroppo quasi sempre ormai, quando è tardi. Milioni e miliardi di persone sono sane, hanno delle buone relazioni, godono del benessere ad ogni istante, eppure hanno un cuore ingrato verso il loro creatore che dispensa ogni cosa copiosamente perché siano felici. E che dire di coloro che professano Cristo che, arricchiti di ogni cosa, vivono come i più miserabili di questo mondo? Che dire di quei credenti che, benché salvati, donano al Salvatore i ritagli di tempo, offrono gli scarti delle loro capacità, quei credenti che si interessano prima dei loro affari e poi, se è possibile, anche quelli di Dio. Il valore di un comportamento può essere compreso solo confrontandolo, e se prendiamo come paragone i credenti dell'ebbrosario, la loro consacrazione a Cristo, la loro gioia in Cristo, lo zelo della preghiera per tutti i figli di Dio, allora, e solo allora, possiamo renderci conto della miseria spirituale nella quale molti credenti sono immersi. E che dire se io mi paragono con Cristo, se Egli è morto per me per darmi una gioia eterna, cosa faccio io per Lui come atto di riconoscenza? E una domanda che mi accompagna e mi accompagnerà per tutta la vita. Forse l'importante non è tanto la risposta, ma che questo interrogativo mi spinga a paragonarmi sempre con Cristo. Questo è cristianesimo. Ottobre 2005. Ellero.